noi abbiamo monitorato, diciamo, la situazione negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole materne, per capirci, da alcuni giorni chiaramente. Abbiamo constatato prima di tutto un silenzio assordante da parte del sindaco, che interviene su tutto, va a fare addirittura a 50 metri, a 20 metri dalla nostra sede sindacale, ha inaugurato una piazzola, diciamo, pedonale larga 2 metri, in pompa magna, con giornali, TV, eccetera, eccetera. Però su quello che sta accadendo, la situazione nidi e materne, silenzio totale. Mentre sulle cronache dei giornali ci hanno raccontato di interventi di molti sindaci, eccetera. Ma non solo, in questi giorni non hanno messo a disposizione delle lavoratrici, dei lavoratori del settore, nessuna possibilità di contatto formale con l'amministrazione. Quindi hanno fatto un po' tutto da sole, cioè hanno monitorato la situazione individualmente, cioè per conoscenza, attraverso delle chat private, diciamo, cose di questo tipo, per rendersi conto noi con loro che la situazione era molto molto pesante. Noi l'abbiamo definita disastrosa, un disastro annunciato, nel senso che chi è stato dietro, appunto, ha monitorato la situazione lo sapeva, e questa mattina infatti ci siamo trovati con circa 200 persone in meno per quello che riguarda gli asili nido e oltre 100, diciamo, circa nella scuola dell'infanzia, calcolando che noi parliamo della mattina e poi ci sarebbe il turno pomeridiano. E su questo c'è il silenzio, non è possibile, perché il rischio che adesso è molto alto di contagio, soprattutto perché chiaramente chi dovrebbe gestire e ha mal gestito tutta l'operazione adesso un po' fa delle cose un po', passate in termini, raffazzonate, un po' ha un'estrema paura, anche troppo, della situazione, insomma si gestisce irrazionalmente. Sarebbe bastato prestare attenzione alle lavoratrici stesse, ma del resto questo comune ha deciso da tempo, ormai da lungo tempo, di non consultare più le lavoratrici e i lavoratori del settore, che sono in grandissima parte organizzate con noi e con altri sindacati, che non hanno rappresentanza per il comune, cioè non sono mai state convocate, nonostante le centinaia di richieste sulla questione ad esempio della pandemia e su tante altre questioni, con quella limitazione dei diritti sindacali contro cui ci siamo battuti, contro cui è stato fatto un referendum che il sindaco dice di voler ascoltare ma che non ha affatto ascoltato. Se avessero invece ascoltato le lavoratrici, avrebbero potuto decidere ad esempio di tenere aperte gli asili, le scuole materne per la mattina, tutte, solo però per la mattina, garantendo però in questo modo una situazione dal punto di vista sanitario sotto controllo, sia per chi ci lavora sia per l'utenza, che tra l'altro, ricordo, è un'utenza che giustamente si presenta, i bambini senza la mascherina non la devono portare, giustamente, insomma, quindi c'è un rischio anche abbastanza alto in questo periodo. Aggiungo che tutti sanno, ma tutti fanno finta di non sapere, che c'è un momento, che è quello del dormitorio, che è molto a rischio, e quindi con la nostra proposta, con la proposta della lavoratrice, ad esempio, sarebbe stato evitato tutto questo. Quello che succederà in questi giorni lo vedremo, però i primi segnali che ci arrivano non sono certo incoraggianti, cioè il comune ha adottato le cosiddette bolle, che sono un sistema organizzativo che non permette il fatto che i lavoratori si spostino da una sezione all'altra, da una scuola all'altra, quindi in questo modo ha messo ancora più a rischio la situazione, insomma. Noi abbiamo chiesto un incontro urgentissimo, immediato, al sindaco e ad Ara, che è l'assessore. Per adesso la risposta non è arrivata, il loro fai da te mette a rischio tutti. Voi avete anche messo in stato di agitazione lavoratrici e lavoratori? Sì, l'abbiamo messo in stato di agitazione, abbiamo invitato le lavoratrici e lavoratori a non prestarsi e non accettare magari anche i toni minacciosi per chi vorrebbe imporre lo straordinario, non per una questione di principio, ma per una questione di salvaguardia della salute loro e di chi ci lavora e di chi frequenta i nidi e le scuole, perché in questa condizione fare straordinario, andare magari a lavorare in altre scuole, eccetera, mette a rischio tutti quanti. Questa cosa, dare una prestazione anche aggiuntiva, si può fare, ma dentro una condizione che non è quella a rischio che abbiamo ad oggi. In più c'è un altro elemento che è di una gravità assoluta, da poche settimane, da circa 3 settimane, insomma, durante le feste natalizie abbiamo sostanzialmente imparato che il Comune di Bologna da oltre un anno non ha i medici competenti previsti dalla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per un, diciamo così, disguido comunicativo fra il Comune e l'ASL. Questa è una gravità incredibile, perché vuol dire che molti degli atti che il Comune ha messo in piedi, molte delle cose che sono successe anche in termini di infortuni, eccetera, ricadono sui responsabili del Comune anche come responsabilità civile, penale. E poi adesso capiamo perché a tante nostre richieste non è stato dato riscontro, insomma, e questo è molto grave.